dice che non si può per sempre credere alle favole. Chi ha detto mai che non è poesia a restare fermi a guardare su, cercando una stella da ricordare quando ormai sarà andata via, persa dentro questa vita, ma non dietro ad una bugia. Siamo istanti che bruciano dentro diamanti fragili, siamo lacrime. Tra ciò che fa essere il vero, tra mille ostacoli e brividi.